voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Ernesto Pellegrini, il calcio d'inizio, azienda, Inter e solidarietà, di Anna Marino. Ho sempre vissuto come giocatore, giocavo all'oratorio come tutti i bambini, però i miei compagni non mi passavano molto la palla perché non ero bravo, avevo i piedi quadrati, tant'è che ho dovuto comprare all'età di 28 anni una squadra che era l'Alcione, una squadra di Milano molto nota, e obbligato tra virgolette l'allenatore a farmi giocare. A parte la battuta, che comunque è vera, ancora oggi mi piace andare sempre nello stesso campo di Linate a fare quattro tiri con degli amici. Anche in questo caso mi passano poco la palla, però insomma mi diverto, e comunque una bella sudatina fa bene alla salute. La storia di Ernesto Pellegrini, imprenditore e indimenticato presidente dell'Inter, nasce il 14 dicembre 1940. Il suo calcio di inizio è stato l'origine di una storia imprenditoriale nella ristorazione con l'omonima azienda, di una presidenza dell'Inter dal 1984 al 95, di un ruolo decisivo nella solidarietà. Iniziò la sua carriera alla ditta Bianchi come contabile, poi capo contabile e responsabile del servizio di ristorazione. Il salto imprenditoriale arrivò da un'intuizione. In anni di boom economico e di cambiamento delle abitudini alimentari degli italiani, si sarebbe sviluppata la ristorazione sul posto di lavoro. Nel 1965 fondò l'organizzazione Mense Pellegrini, che oltre alla ristorazione collettiva si occupò successivamente anche di buoni pasto, pulizie, servizi integrati e distribuzione automatica. Ecco perché Ernesto Pellegrini è partito proprio dal cibo. È stato un caso, perché io ero contabile, un contabile semplice all'Edoardo Bianchi Biciclette, dove ho conosciuto il mitico Fausto Coppi, Pinza d'Oro, Rapinella De Grandi, il suo meccanico. Poi ho fatto un po' di carriera, perché nel giro di 2 anni sono stato promosso capo contabile in una piccola azienda, sempre della stessa Bianchi. Intorno all'ora di pranzo avevo già ultimato il mio lavoro, andai dal mio capo e chiesi non aumento di stipendio, ma lavoro. E lui mi disse: ti dovrei rapportare con il capo della commissione interna, il quale aveva sempre molti problemini da risolvere all'interno, con i suoi collaboratori, con gli operai, con gli impiegati, eccetera, no? E dunque un giorno venne da me e mi propose di gestire la mensa della Bianchi, perché il gestore di quel momento aveva disdettato il contratto. E io gli dissi innocentemente: guardi che io non so far da mangiare. Lui ha detto testualmente: non si preoccupi, io so che lei è figlio di ortolani, dunque so distinguere la verdura fresca da quella meno fresca, so che è un buon amministrativo, quindi non vedo problemi, ho io una cuoca che sa fare quei minestroni eccezionali, aggiunse. E la cuoca, e qui comincia la mia fortuna, era la sua amante. Le svolte nascono da un momento all'altro. Lo sa bene Ernesto Pellegrini, che ha scommesso su un'idea cogliendo l'attimo. In quel momento non avevo il papà, dunque avevo 23 anni, 24 ecco esattamente, mantenni il posto di lavoro come capo contabile e iniziai l'avventura imprenditoriale con 150.000 lire regalatomi dal capo. Staccò un assegno, mi diede un po' del matto perché sapeva che avrei affrontato qualche cosa di cui non ero proprio a conoscenza, però gli ero entrato in simpatia, e dunque con quelle 150.000 lire ho costruito un'azienda oggi che dà lavoro a 7.500 persone, un'azienda, tengo a dire, italiana, che non è solo nella ristorazione ma nei servizi in generale. Dunque anche per questo mi sento fortunato. Lo spirito di intraprendenza però nasceva dalla sua famiglia d'origine, insieme alla capacità di sacrificarsi nel lavoro per un obiettivo, il pane, assumersi un rischio, quello delle stagioni, utilizzare la propria forza per affrontare le emergenze. I miei genitori erano contadini, meglio dire ortolani, persone che lavoravano la terra dalla mattina alla sera sotto il sole cocente, la pioggia, spesso mettevano le mani nella neve, dunque era una vita di sacrifici. Io questi sacrifici li ho visti fare, li ho sentiti dentro di me, addirittura loro lo facevano per farmi studiare. Prima con l'organizzazione Mense Pellegrini, poi con Pellegrini S.P.A., poi nel mondo con la Pellegrini Catering Overseas S.A., fino al gruppo Pellegrini, la crescita è esponenziale, su solidi principi, mantenuti sempre saldi. Il lavoro c'era allora, no? Io cercavo ovviamente di imporre nel mio lavoro la qualità del servizio, era una famiglia che cresceva, i valori veri, il contatto con il cliente che deve essere soddisfatto, cliente che deve, quando ha un problema, essere immediatamente contattato e occorre risolvere il problema nel più breve tempo possibile. L'8 gennaio 1984 acquistò l'Inter da Ivanoe Fraizzoli. Ecco come è arrivato al calcio, con un sistema di valori tipico di un allenatore che motiva una squadra, come ha da sempre motivato l'impresa. È stato un caso proprio, ecco un caso, perché quando mi sono sentito che avevo disponibilità, ho scritto una lettera al compianto presidente Fraizzoli, succintamente dicendogli: io sono padrone, perché ero padrone, proprietario, ecco meglio dire, dell'albergo di Villar Perosa, dove gli Juventini, la squadra della Juventus, va in ritiro. Pur tuttavia il mio cuore batte nerazzurro, il mio cuore è interista. Dunque mi piacerebbe, dopo essermi affermato, rendermi utile alla mia squadra del cuore. Sotto la sua gestione vennero acquistati Rummenig, Mateus, Klinsmann e Breme. La squadra conquistò il 13° scudetto nella stagione 1988-89, passato alla storia come lo scudetto dei record per i 58 punti guadagnati in 34 partite. Sempre nel 1989 l'Inter vinse la Supercoppa italiana e nel 91, dopo 26 anni senza vittorie in Europa, conquistò la Coppa UEFA battendo in finale la Roma. Nel 90 Pellegrini venne insignito dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro. L'ultimo trofeo della squadra sotto la sua gestione fu la Coppa UEFA conquistata nel 1994, vincendo la finale contro il Salisburgo. Nel 95 lasciò la presidenza della società a Massimo Moratti. Ma nel cuore sono rimasti tanti giocatori italiani, ovviamente, ma tedeschi. Karl-Heinz Rummenig, un giocatore eccezionale, era considerato il primo bomber, il primo attaccante del mondo in quel periodo, ma era anche soprattutto un uomo, un esempio per gli altri. Andavo molto d'accordo con lui, no? Posso dire che ci assomigliavamo un po', tutti e due eravamo ambiziosi, tutti e due credevamo nel calcio vero. Rummenig è rimasto nel cuore di tutti i tifosi interisti, ma poi dopo sono arrivati Lothar Matthäus, pallone d'oro anche lui, campione del mondo insieme a Breme, insieme a Klinsmann qui a Roma. Io ho preso solo tedeschi e poi alla fine due giocatori olandesi sfortunati, Jonk e Bergkamp, però con i quali abbiamo vinto la seconda Coppa UEFA, quando le Coppe UEFA contavano. Nel dicembre 2013 nasce la Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus per aiutare le tante persone che si trovano in condizioni di temporanea difficoltà economica e sociale, che ha avviato da ottobre di quest'anno il ristorante Ruben a Milano, in via Gonin 52. Può servire fino a 500 pasti ogni sera. Il costo del pasto per ogni commensale è simbolico e pari a un euro. Questa idea è sorta e nata proprio in occasione del 50° anniversario della Pellegrini. Prossimo anno noi festeggeremo 50 anni di attività, festeggeremo 25 anni Cavaliere del Lavoro e 75 anni, purtroppo, miei. Tutto è nato da Ruben e dal principio che la povertà non toglie la dignità. Ruben era un uomo che ho molto amato, era un contadino, lavorava nei campi. Perché l'ho amato? Perché ha lavorato per i miei nonni, per i miei genitori e poi per un breve periodo per me e mio fratello. Era un uomo che viveva in cascina ma dormiva in una stalla, in un abbaino, un letto di paglia, con appeso l'abito della festa. La domenica lo metteva sempre con giacca e cravatta, andava a mangiare in trattoria, il pollo, un bottiglione di vino, ritornava che era un po' brillo e interrogava noi ragazzi sulla storia, perché lui era un grande appassionato di storia. Purtroppo è morto assiderato, perché nel 62 alla famiglia hanno tolto la cascina, l'hanno abbattuta per costruire case popolari. A noi hanno dato una casa popolare. Ruben purtroppo è finito in una baracca di legno. Io avrei voluto aiutarlo in quel momento, ma soldi ne avevo pochi. E oggi aiutiamo i tanti Ruben che hanno bisogno. Ruben non era un barbone, come è stato scritto, era un grande lavoratore, era uno che lavorava dalla mattina alla sera. Si parla di non sprecare il cibo, di Expo, di sostenibilità, ma Ernesto Pellegrini è abituato ai fatti, non alle parole. Noi abbiamo una convenzione con il Banco Alimentare, vengono in moltissime mense a prendere il cibo avanzato ma buono, insomma, no? Che lo portano a chi ha bisogno, a chi ha fame. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.